Lode agli dèi, lo fuggite ma speme amarsi in sé, già ritornar si vede. Col lieve Emilia, è stolto chi non sente piacere quando, placato l'altro genio guerriero, può sperar la sua pace il mondo intero. Nobil pensier, se i pubblici riposi di tutti i voti tuoi sono oggetti, ma spesso avviene che questi siano illustri pretesti ond'altri ascondo i suoi privati affetti. Vedi ciò che ti piace, io spero intanto, e alla speranza mia l'alma si fida e i suoi timori oblia. Tu vedi, oh bella Emilia, che mia colpa non è, sorgi di pace se ritorno a fingiamo, assai fulmio conosco, e quanto prostitisi, so però con qual zelo porgesti il foglio, e come a favor del tiranno ragionasti a Catone. Era il tuo fine, d'aggiunger fuoco al loro sdegno. Non è così, puoi dubitarne, intendo. Ora che pensi a vendicarmi, come meditai, ma non scelsi al braccio mio. Tu promettesti, il sai, l'onore del colpo, e a chi fidar possiglio meglio la mia vendetta. Io t'assicuro che mancare non saprò. Vedo che senti delle sventure mie tutto l'affanno. Salvo un eroe così, così l'inganno. Oddio, tutta se stessa lei come fida è mia, ed io l'inganno. Perdonami, a me, anima grande del trafitto Pompeo, che oggi perdono, se stupratore di tue vendette io sono.